preso a calci il mondo, perché io avevo il tuo, non hai guardato indietro negli scanni di un addio, negli scanni di un addio. Thank you.